YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Siamo già alla seconda puntata della quarta stagione. Mi sembrava già quasi la terza invece. Guarda come passa il tempo, già sembrava la terza, no, la seconda. Ma perché abbiamo avuto questi ospitoni nella prima e anche in questa seconda, quest'anno partiamo altissimi e sì, quindi sì, sembra al top, già per citare pienissima. Giuseppe Cruciani, partiamo al top. Allora, dunque, dobbiamo dire gli account. Bravo. @ Marta Cagnola, @ Di Bellasio, dobbiamo dire gli hashtag. Cancelletto ISDV e cancelletto Radio Tube. Senti Daniele, sì, dunque è ripresa la stagione televisiva. Oh, ma è ripresa la stagione. Il talk. Noi stiamo inseguendo. È come vivo, sempre morto X. Dunque perché... noi non abbiamo ancora parlato di questo argomento che è un tormentone. In più noi stiamo inseguendo Semprini come Semprini insegue Di Maio più o meno. Sì, non siamo prima ancora poi, riusciti però, ad avere ospite Gianluca. Grande, no, ma ce Gianluca. La faremo, dai, sì, ce la faremo. Sì, sì, sì. Dunque poi noi grandi fan di Semprini. Politics è andato in onda e questa sì. volta è andato in onda con l'ospite che doveva esserci alla prima puntata, perché anche loro erano alla seconda. Sì, anche loro erano alla seconda. E quindi? Doveva esserci Luigi Di Maio. Luigino, come lo chiama? Luigino Di Maio. La prima puntata ha dato buca. Non mi viene in mente. Sai che De mi Luca. Ha fatto una grande tenerezza il povero Semprini? Perché? Immaginati. Perché? Vabbè, il debutto. Sì. Con tutti gli occhi puntati addosso. Sì. Anche con tutte le armi spianate contro. Sì, avevano già sappiamo. Pronti gli editoriali ecco. sul flop dello share. Del ecco. flop, e con l'ospite esplosivo che all'ultima da buca. E da capisci buca. Che... sì, per... e soprattutto capisci quando invece povero. Sarebbe stato l'ospitone del millennio, perché c'era il caos del Campidoglio che ragazzi, tra l'altro prosegue tutto il resto. Sono... ma Luigino... io sai, ho l'empatia del conduttore subito, ho pensato sì, metti, a lui con molta ansia. Un giorno ansia. Io non mi presento. Ma secondo me ma secondo te, lo stesso, secondo però. Te non si presenta il nostro amatissimo Christian Goldoni. Non va in onda, non va in onda nulla, niente. Nulla. Ma noi però nella prima puntata è capitato con il direttore Mentana che insomma sì non rispondeva insomma, al telefono, poi ci ha spiegato perché sì, non stava rispondendo stava al telefono. Rispondendo peraltro ai 5 Stelle esatto. e a Luigi Di Maio in pieno stile Radio Tube. Non rispondeva ancora al telefono perché doveva rispondere a un commento su Facebook. E come diresti tu che sei la lingua? Tu se tien. Tu se tien. Sì, sì, sì. Allora, tutto alla ah, no, seconda... stavamo parlando di politics, però. Sì, che pare a voi che state attenti a queste cose, come share... deve ancora ingranare, diciamo come dici così. Tu, c'è Maretta. C'è Maretta, sì, c'è io rispondo ogni tanto alle c'è mail. Maretta. C'è Maretta. Quando io ti chiedo come è andata la trasmissione XY, tu rispondi via mail, c'è Maretta. Esatto. Come un po' nei rapporti di coppia. Cos'è? Insomma. C'è Maretta. È però... così. Però io dico, scusa, dobbiamo commentare adesso lo share o dopo che mandiamo in onda un video? No, raccontiamo un po' di politics, spiegami un po', ti è piaciuto? No, a me piace abbastanza perché ci sono dei tentativi, i servizi possono migliorare, però è una trasmissione nuova, diversa, poi a tutte le cose anti-audience le hanno scelte, cioè dura sì. un'ora e mezzo, un trucco di voi che conoscete la televisione, non è quella di allungare il più certo, possibile. Certo, perché lo share, qualcuno lo chiama la share, la vabbè, share insomma, va sì. bene entrambi. È una percentuale, a volte lo diamo per scontato che tutti lo sappiano, è una percentuale, quindi il numero dei telespettatori sintonizzati su una certa trasmissione in percentuale rispetto a tutti quelli che sono sintonizzati. Più tardi si fa, più è facile che un programma abbia... raccatti una percentuale migliore. Una percentuale maggiore. E loro invece un'ora e mezza, quindi dura di meno. Certo. In più il conduttore è bravissimo, Gianluca Semprini, però viene da Sky, comunque non è noto come no, deve altri... prendere le misure. Esatto, deve prendere deve misure. Prendere... cioè lui deve prendere misure e il pubblico deve prendere le misure su di lui perché lo conoscevano quelli che avevano visto ad esempio i dibattiti su Sky. Sì, che però appunto era un pubblico diverso. Stiamo difendendo tutte e due quindi la trasmissione. Ma per tutto una volta sommato, siamo d'accordo, ogni sommato... siamo d'accordo. E poi dall'altra parte, capisci, dall'altra parte invece c'è il rodato di martedì con Floris, per di più adesso anche Giannini. Inoltre, come ha fatto notare qualcuno, la percentuale è sempre la stessa, 10% il talk, no? Sì. E se lo divido e adesso la somma fa il totale. Sì, cioè? No, si dice la alla somma fine fa il sono totale. Sempre il totale 10%. Fatto dalla somma peraltro. Sì, esatto. Esatto. Peraltro però questa puntata... Ma Di Maio sì, è arrivato? Stavolta c'è andato lui e tutto il suo italiano. E tutto il suo... Per bene, ha detto tutto bene? Ma ogni tanto... ma non si capisce se scherza. Ma noi prima però dovevamo mandare in onda un altro. Ma mandiamo già quello. Va bene, già manda quello dopo. Che decidi tu, vai. Perché mi hai detto che una svirgolatina l'ha fatta in questo italiano. Io non ci credo. Ha usato una cosa che a me ogni tanto diverte. Cioè l'uso transitivo dell'intransitivo o intransitivo del transitivo. Sentiamo cosa ha uscito Luigi Di Maio. Lei adesso alla Raggi che cosa dice? Lo dica tramite le nostre telecamere direttamente. Se devo dire qualcosa alla Raggi la telefono, ma sicuro, alla sindaco Raggi la telefonerò. E che cosa le devo dire? Mi scusi. Che cosa le vuole dire? Le auguro buon lavoro e un in bocca al lupo. Ma era un accusativo interno alla non greca. Non lo so. Era una... Una volta si diceva, lo dicevi anche tu, scendi il cane che te lo pisci. Si può dire alla radio? Vabbè, sì. Di sabato pomeriggio, sì. Quasi sera. Strano, perché non si dicono mai volgarità alla radio. Ma non lo so. No, non si dice. A chi alludi? No, secondo me... No, a nessuno. Anche perché poi, secondo me, qualche parola accetta scapperà. Vabbè. Senti, invece Roma, come stiamo? Roma, dunque, quindi vogliamo... Risolti i problemi, tutto a posto? No, non tanto, perché per esempio, sai, c'è stato discorso dei giornalisti inseguono un po' la Raggi. E abbiamo già parlato ogni tanto del fatto che però anche la Raggi ha fatto alcune cose per cui sembrava un po' voler in qualche modo utilizzare ciò che può diventare facilmente virale. Ricordiamo... Cioè lei ha lanciato la mano mediatica e poi ha nascosto il sasso. E poi l'ha un po' tirata indietro. Però ha tirato fuori l'iPhone. Si può dire iPhone? No, un normale smartphone. Perché magari non era iPhone. E cosa ha combinato? E a un certo punto si è messa a riprendere i giornalisti che stavano aspettando lei che usciva di casa. Abbiamo il video? Abbiamo non l'audio? Lo mostriamo alla radio? Questo, ce l'abbiamo. Facciamo pari. Facciamo bene, insomma, vero? Beh, un po', devo dire. Un po' sì. Grazie. Come state? Sto bene, di lunedì mattina si sta sempre bene. Voi come state? Buongiorno. Sai che non lo so cosa penso? Intanto che di lunedì mattina si sta sempre bene è una roba che solo lei forse. Non però... lo so cosa penso. Ma cioè, allora, da un certo quello che punto ha scritto, di... sai che anche scritto, no, sì, diciamo, sì, sì, sì. Il fate pena dell'audio video era perché lei ha scritto su Facebook: lasciatemi un po' in pace, siete qui fuori ad aspettare che io porti fuori la spazzatura, magari scivolo le cose, mi fate un po' pena. Ecco, questo nei confronti delle persone che lavorano. No, comunque, non mi piace, non beh, è proprio però il massimo. Non lo so cosa pensare, perché da un certo punto di vista non mi interessa che qualcuno stia appostato sotto la casa di un sindaco, però se questo sindaco magari non esterna, uno cerca di cogliere dove può. Non lo so. Ma io soprattutto non erano streaming, trasparenza, tutte queste cose qua. Siccome non si fanno più le cose in streaming, non so ancora c'è cosa un altro pensare. Video che gira virale in rete di una trasmissione. Penso a Politics, l'hanno mandato in onda e c'era Grillo al ristorante con i suoi. Ecco, magari lì forse persino un po' eccessivo. E loro a un certo punto mettono le tovaglie o fanno mettere le tovaglie per non far vedere. Non so, la rete. Non parliamo delle cose brutte successe questa settimana. No, se ne è parlato abbastanza, forse non è neanche il tono, il tipo della nostra trasmissione. No, facciamo una cosa. Sì. Una brevissima pausa, poi per ci ritroviamo insieme. Immagino per il traffico. Per il traffico, ecco. Per il traffico. Poi abbiamo ancora argomenti gustosissimi che riguardano la rete e non solo la RadioTube. YouTube. E rieccoci dopo la pausa, Daniele. Sì, però io ti ho fatto una domanda, non ho mai ancora risposto. Ma quale? Questi talk stanno bene, stanno male, sono morti, sono vivi? Allora, mi ha insegnato un amico e collega che tu conosci benissimo, Francesco Caldarola, che certo. Questi talk hanno delle regole un po' desuete, ma che funzionano. Per esempio, una delle ragioni per cui Politics non ha raggiunto i picchi, che alcune delle scelte anti-audience, chiamiamole così, che ha voluto fare, per esempio non c'era la classica mezz'ora sul tema delle pensioni, che è un grandissimo classico dei talk. Per il pubblico over. Beh, è ovvio, ma non solo per il pubblico over. Guarda, sì. Ti posso assicurare che anche facendo siti, lavorando a un sito di informazioni importante quotidiano, conosciamo. Pensioni, gli italiani si innamorano del tema pensioni. Allora tu per fare un talk perché di successo... Perché sul sito del Sole la parte delle pensioni certo. È cliccatissima. Assolutamente. E questo vale anche in televisione per i talk show. Tu devi fare la classica cosa pro contro il capo degli esodati. dati, il capo dei pensionati precoci, dei lavoratori, due politici, uno di destra, uno di sinistra, uno di 5 Stelle e via, quella mezz'ora lì ti tiene sull'audience. Quindi Gianluca Semprini, se sei all'ascolto... Ma lo sa benissimo, immagino che lo sappia benissimo, gliel'abbiano detto e ha fatto giustamente ogni tanto anche altre scelte. Quindi non c'è la crisi, fa sempre il 10%, i telespettatori sono quelli lì. Sulla crisi del talk però ha parlato anche Giovanni Floris, mi hanno detto dalla regia. Addirittura, però. Sì, ne ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del suo talk, e sentiamo cosa dove ha detto che arriva anche Massimo Giannini, che sarebbe come Higuain che chiama Milik alla Juventus dopo, vabbè. Vabbè, sentiamo. La teoria della crisi dei talk è smentita dall'offerta di talk che continuamente nascono, crescono e si sviluppano. È chiaro che il pubblico si divide, ma non è così drammatico, sono sempre tantissime persone, cioè un 6%, un 5% di pubblico di prima serata sono sui 2 milioni di persone. Mettili in fila, si dice a Roma. Mettili in fila, mi piace. Mettili in fila, diventa lunga. Diventa lunga. Ma chissà cosa ne pensa un esperto. Ma soprattutto ne vuole pensare qualcosa. Non lo so, noi glielo chiediamo. Scrive su alcuni giornali e per qualche azienda, racconta fatti sul web e condivide un sacco di musica altrui. Lo trovate sul treno Milano-Livorno, questa è la sua bio su Twitter, @MB. Buonasera Michele Boroni, ciao Michele. Buonasera, ciao a tutti. No, noi Michele l'abbiamo chiamato per altre cose di cui lui è più esperto. Però già che ci siamo, tu cosa ne pensi da osservatore anche di cose di costume oltre che di marketing? No, mi piace questa cosa che le pensioni sono il nuovo porno in TV, questo è interessante. No? Cioè... Anch'io l'ho scoperto adesso. Bello. O i nuovi gattini, insomma le pensioni come i gattini e come insomma argomenti che in qualche modo interessano e fanno audience. Non lo so, poi lì è anche un problema tecnico alla fine, perché secondo me bisogna parlare dei talk al tempo dei social. Ma infatti Semprini sta tentando di fare il Facebook Live durante la trasmissione. È chiaro che all'inizio pare un po' posticcio e non è la stessa cosa, perché bene o male ricevere una domanda via SMS con la vecchia telefonata al centralino di Portobello o su Facebook televisivamente è la stessa cosa. Però certo, sono tentativi, dai. Ah no, ma assolutamente, va benissimo che vengono fatti su Rai 3 a questo serve, no? Rai 3 era 4 e Rai 4 dovrebbero essere le TV in qualche modo laboratorio dove si può sperimentare e provare nuovi linguaggi, nuove formule. Sono d'accordo, ma noi abbiamo chiamato Michele Boroni e non ho ancora citato il suo blog, che è mb.blogspot.it. è la tua cifra da un sacco di anni, perché noi eravamo blogger un sacco di anni fa e tu conservi mamma mia, veramente l'altro ieri. Daniele si è appassionato di alcuni video pubblicitari. No, io ho letto su Facebook che Michele aveva condiviso uno spot di una nota azienda svedese di mobili. Mi guarda, silenzio. Strano. No, ma perché sto facendo cena adesso? Così gli ascoltatori ci vedono alla radio. Sto cominciando a guardare che in regia per dire mandiamo. Che tra poco lo mandiamo. Ma io invece ho interpretato come non dire l'azienda, No, ma diciamolo, Ikea, eccola qua. Hey. Leo, papà. Beh, dire nota azienda svedese dei mobili è come dire la famosa bevanda con le bollicine. Almeno lì due ce ne sono, però vabbè. Vabbè. Allora, c'è un bel papà che suona un campanello con una bella mamma. Sono due genitori evidentemente separati, che vivono in case diverse. E il papà arriva a prendere il bambino, che fa la borsa, una delle cose, diciamo così, più struggenti per i papà che si trovano in quella situazione, scende e va a casa del papà. Arriva a casa del papà e dopo aver visto tutto il spettatore la stanza nella quale aveva fatto la borsa, vedi la nuova stanza e, sorpresa delle sorprese, è identica, perché il papà ha cercato, e grazie a questa nota azienda senza spendere troppi soldi, nota azienda svedese che vende mobili in pacchi e fa delle polpette buonissime al ristorante. Allora, quella nota svedese, e quindi è uno spot bellissimo. E Michele, sì, e questa è una delle, è un bellissimo spot, anche perché non viene, cioè viene in qualche modo rappresentata la vita vera e non viene data una visione edulcorata della famiglia felice, tutti contenti, eccetera. Michele, questi spot sono una nuova frontiera, non solo perché sono molto belli, ma sono molto belli e pronti per essere condivisi. Mi riferisco a questo, mi riferisco ad esempio ad alcuni spot favolosi della Nike, ad esempio quelli di quest'estate per le Olimpiadi, nota azienda di scarpe sportiva che ti suggerisce che puoi farcela, oppure oppure quelli di Dove, quest'anno informissimo quelli di Dove sulla bellezza femminile, sono spot già fatti per essere condivisi in rete. Assolutamente, assolutamente, perché uno dei temi forti delle nuove pubblicità è quello della credibilità, e quando qualcosa è credibile, oltre a essere spettacolare, bello dal punto di vista della regia, della fotografia, eccetera, se è credibile e se magari sposta anche un po' il punto di vista, magari con una piccola provocazione, eccetera, questo permette di condividere e anche di discuterne. Quindi non è soltanto uno spot puramente commerciale, ma fa anche capire come la società si sta spostando realmente, e non solo perché l'azienda vuole dare quella sua visione della realtà, ma perché in qualche modo fotografa certi cambiamenti che stanno arrivando. Ecco, ma allora mi verrebbe dal tuo ragionamento di farti una domanda un po' alla Marzullo, così Marta ride. Sono gli spot che stanno diventando sempre più consapevoli nel racconto delle cose complicate della vita di tutti i giorni, e quindi così favoriscono un consumo più consapevole, oppure viceversa, sono gli spot che si stanno adeguando a una società più smaliziata anche nel consumare? Guarda, forse la verità è più sulla seconda parte, più la seconda, diciamo, opzione, perché in realtà oggi ci troviamo di fronte alle persone che non sono più dei consumatori, ma sono persone che hanno una relazione diretta con le aziende. Vedi sui social, no? Uno può veramente parlare con l'azienda e può anche in qualche modo, scusate il brutto termine, ma non trovo altri termini, sputtanarla nel caso in cui un servizio o un prodotto non sia all'altezza. La credibilità è fondamentale, e la reputazione è il vero tema oggi importante, e quindi anche nella comunicazione le aziende cercano di essere cioè raccontare le cose vere, essere molto più trasparenti. Se una persona non è contenta di un servizio o di un prodotto che ha acquistato, ne parla su Facebook, se conosce bene le regole della rete, può veramente far avere la reputazione di un'azienda, e quindi insomma le aziende devono stare molto attente a come comunicano e non raccontare cose che poi non sono vere. Michele, allora torni a trovarci per parlare di comunicazione in rete che riguarda le aziende. Secondo me è un tema molto interessante. Interessa sia le aziende che i consumatori, che siamo poi tutti. Quindi quando sei non sul treno Milano-Livorno, ma a Milano, vienici a trovare in studio, ecco. Dai. Se no veniamo noi a Livorno. O se no venite voi a Livorno. Esatto. Facciamo una puntata di Radio Tube da Livorno. Oh. Grazie, ciao Michele. A Michele Boroni, chiocciola MB, alla prossima, ti aspettiamo. Ciao. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao. E adesso una piccola pausa. E poi cantiamo? Poi cantiamo e balliamo anche? No, ma anche. Non cantiamo, qua entriamo proprio, rivivremo tutta l'estate, tutte le tresche, tutti i gelati. Ma parla per te, per le tresche, che no, io sono una persona altri, seria, tra poco. Io sono una persona anziana. Verona-Torino, trasferta da affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14:30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Radio Tube. Beh, dopo una bella pausa, adesso abbiamo, l'abbiamo detto fino all'inizio, un ospite al top. Sì, quest'anno Marta con me è bravissima, perché proprio mi vuole regalare tutte le possibilità per diventare il mito di mio figlio. Qual è la trasmissione che tuo figlio ha atteso con più entusiasmo? Qui è doppia in la cosa. Qui sì. Qui c'è la trasmissione e le canzoni. E l'artista. Quindi il regalo che tu mi fai è doppio. Allora, intanto dimmi qual è la trasmissione. Sicuramente X Factor. Io posso indovinare qual è stata la canzone dell'estate secondo tuo figlio? Indovino? Allora, guarda, io ho la sfera magica e dico che la canzone dell'estate per tuo figlio è stata questa. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo la canzone di tuo figlio, no, direi per di, me di sicuramente lo italiani. È stata di milioni di italiani. Lui di è stato l'età. Definito quest'estate come? Il fidanzato d'Italia. Ma chissà cosa ne pensa lui di questa definizione. Buonasera Alvaro Soler, ciao Alvaro. Ciao. Allora, fidanzato d'Italia è una responsabilità, Sì, una responsabilità, sono stressato già, come faccio per avere tante fidanzate, io non posso. Senti, ma come hai imparato bene l'italiano? Vabbè che sei favorito dalla tua lingua madre, però l'hai imparato benissimo l'italiano, in poco tempo. Grazie, penso che, bueno, io sono un fan delle lingue, mi piacciono, allora per me è come un hobby anche. Bravo. Allora, nuova avventura, giudice di X-Factor. Com'è andata la prima parte? Perché noi abbiamo cominciato a vedere le selezioni, i casting, che poi è una parte che ci entusiasma molto perché vediamo di tutto, il bello, il brutto, il divertente. Intanto la prima parte com'è andata? Bene, molto bene. Io ovviamente per me la prima puntata era un po' come per sentirmi a mio agio, era la prima volta che veramente ho fatto il giudice. Ovviamente era avevo molto rispetto da quel lavoro, allora sì, molto bene. Alla fine penso che ogni puntata impariamo in più tutti insieme, il tavolo diventa più divertente, penso, e noi siamo più aperti così, né? più scelte, come si chiama, più sciolti, no? Si dice, penso. Ma molto divertente, penso che è stato fino adesso una bellissima esperienza e non vedo l'ora di iniziare anche con il live. Qualche giorno fa c'è stata la presentazione della nuova stagione di X Factor e tu hai detto due cose che mi hanno divertito molto. Una hai detto che sei cosciente che molti ti paragoneranno a Mika, perché che pensino che tu abbia preso un po' il posto di Mika. Questo che impressione ti fa? A me in realtà non so, penso che ognuno è diverso, penso che è normale che la gente si compara un po' con cose dell'anno scorso e come è andato, ma penso che fino a che non vedono la prima puntata e in generale un po' tutto, non si può dire anche che è un'altra cosa che è diverso al fine. Che bravo sto ragazzo. E poi la seconda cosa, Daniele, è divertentissima, perché gli hanno chiesto, come si chiede sempre agli artisti stranieri, una domanda proprio sempre: chi conoscevi d'italiano? E lui ha detto Pausini, Ramazzotti, Ferro e Neck, che hanno fatto delle canzoni in spagnolo, e poi ha detto: ma io conoscevo Peppino Gagliardi ed ero convinto che fosse una star enorme in Italia. Vero, Alvaro? Certo, sì, ovviamente, sì. Sì, no. Daniele mi sta guardando con la faccia per dire: ma chi è Peppino Gagliardi? No, come la mucca guarda il treno. Sì, esatto. Ma perché era famoso tanti anni fa, Alvaro. Noi non, invece tu eri convinto che fosse ancora una grande star. No, ero convinto che nella sua epoca è una grande star, ovviamente. Certo. Ma ovviamente, queste persone non, sempre rimangono grande star, penso, per la sua musica, è come un po' un classico, no? E non so, mi è piaciuta quella canzone che ho scoperto che si chiama questa musica, che vuole questa musica stasera, e non so, sì, bello mi piace. Senti, ma un sacco di cose al Spotify di lui. No, io ho più che altro una curiosità, perché insomma, prima Marta parlava della responsabilità. Ora, la notorietà così esplosiva, furibonda, cioè il fatto che tutti veramente conoscano le tue canzoni, e poi adesso con X Factor questa cosa appunto si mischia con la televisione. Un artista come affronta la responsabilità che gli viene dalla notorietà? Cioè, ha paura, ha ansia di perpetuarla, ne rifugge. Tu, qual è la soluzione tua nell'affrontare una notorietà che quest'estate ti ha portato a essere la colonna sonora di innamoramenti, di lasciamenti, di litigi, di tutto, di vita di tutti? Sì, questa è una buona domanda. Penso che prima di tutto sempre cerco di essere professionale sulle cose che faccio, se vado in TV, penso che la mia responsabilità è da non diventare più famoso, ma da fare un buon lavoro a quello che voglio fare, allora, che la musica, no? In realtà è per quello che lo faccio. Ma ovviamente sì, è divertente perché io non vivo in Italia, allora io non ho questa... Italia per me, bueno, è realmente il posto dove sono più famoso, cioè, ci sono anche altri posti, ma anche la gente è più energetica, non so come dire, più, sì. più calda in Italia, no? E con tutto quello di chiedere le foto. E questo è sì, una cosa che mi piace, ma ho anche Berlino, che è la mia casa, che non c'è niente là, è veramente come se... Quindi tu puoi girare tranquillamente? Sì, sì. Ah, sì. Che meraviglia, meglio così, eh? Sì, è meglio di avere le due. Esatto, bellissimo, due, perfetto. Sì, in Italia diciamo che proprio tanto in giro in questi giorni. Secondo me non puoi più. Tranquillamente. No, insomma. Anche perché poi Alvaro è altissimo, cioè si vede, però non è che si può mimetizzare. Sì, alla fine vado così piccolino, no? In realtà non posso... Sì, è un po' diverso. No? Io ho fatto una foto con lui, si è dovuto piegare in tre per entrare nell'obiettivo. Posso fare... Posso dirti una cosa? Dimmi. Sai che è nato nel 91? Ma me lo dici per farmi stare male? Sì, esatto, perché così stiamo po' male. Però guarda che come artista sembra molto più adulto. È per questo, è molto saggio, però è nato nel 91. Sì, ma io avevo una curiosità da profano della musica. Come definiresti la tua musica? Perché è difficile dargli un genere, o sbaglio? Sì, bueno, alla fine ci sono tanti diversi, no? E la gente sempre ti mette in un genere che pensano che è giusto, ma è anche questo non mi importa. Penso che alla fine è il Latin pop, ma con questo tocco, bueno, con questa cosa positiva, che alla fine penso che la base della mia musica è, che è molto organica, molto, molto allegra, molto positiva, e non so, quello penso che è la regola numero uno quando scrivo una canzone, per me, no? Alvaro, quando hai visto i ragazzi che si presentavano ai casting, ti sei ricordato di quando tu, nel 2013, non vorrei sbagliarmi, con gli Urban Lights sei stato a Tusi Kevales? Sì. Perché anche Alvaro ha fatto un talent. Sì, rappando in inglese. Rappando in inglese, capito? Ah, grandissimo. Sì. Sì, ovviamente penso che questa empatia con i concorrenti l'ho alla fine per quella esperienza, e anche mi aiuta a sapere esattamente come al backstage, no? Da tante ore di aspetta, e dopo hai 2 minuti per esibirti, e con quei 2 minuti tutto dipende di quello, no? Alla fine è un po' è duro, però è così, no? Alla fine, allora sì, non so, ho questa empatia. Quindi, come si chiedeva all'università ai professori, tendenzialmente sarai un giudice più sul buono che sul cattivo? Non so come l'hai visto nella prima puntata, però vediamo insieme. Vediamo Io insieme. Ti ho visto più deciso, cioè pensavo che fossi più possibilista, invece bello deciso. Sì, alla fine penso che quello è... Sono là per fare quello, non Bravo, per sì. dire a tutti che cantano bene, anche se in realtà non cantano bene, quello non sarebbe fare il mio lavoro. Allora è una responsabilità e devo farla. Mm-hmm. Alvaro, adesso Libre con Emma, e stai pensando già a musica nuova? Perché poi io immagino che un musicista abbia sempre in testa qualcosa di nuovo. Sì, no, ovviamente, però sì, piano piano, no? Piano piano, alla fine questi 2 anni non è stato così piano piano, però però sì, ovviamente ci sono sempre idee che vanno, bueno, che circolano sulla testa, e ma devo, ho le idee, ma devo intervistarli un po', finirle, perché devi firmare un po', perché adesso stai girando come una trottola. Sì, no, finire le canzoni è la cosa più difficile, penso. Alvaro, fidanzato d'Italia, Alvaro Soler, che responsabilità. E poi, secondo me, con X Factor peggiora. Beh, l'amore Alvaro, dell'Italia, dell'Italia nei tuoi confronti aumenterà sicuramente, quindi sempre meno posti da visitare con tranquillità. Esatto. Però, insomma, è anche il bello di questo paese, dai. Eh beh, sì, no, ovviamente l'Italia mi piace tantissimo, veramente la... ma anche bueno, sul video con Emma si vede, no, che sì. Il passaggio così era così bello, e per me mi piace tantissimo avere il video così, perché per me sarà sempre un ricordo d'Italia. Sì. Molto bello, allora, ed è una giornata molto, molto intensa, ma molto divertente anche. Allora sì, è veramente un bel ricordo. Alvaro, grazie per essere stato con davvero. Noi, ti ringrazio davvero tanto, grazie. Ti ringraziamo davvero tanto, grande, grandissimo Alvaro Soler, appuntamento allora con X Factor, e poi ti aspettiamo nei live, perché lì secondo me ci sarà da divertirsi. Grazie mille Alvaro. Ciao. Grazie a voi, ciao, buona giornata. Che meraviglia. Ah, adesso quando... senti l'estate. Io che direi torna. Che adesso noi durante la pausa, piccola pausa per il traffico, ce la riascoltiamo, ce la riballiamo, ce la ricantiamo tutta. A tra poco. Radio Tube. Daniele, devo dirti che grazie a te mi sono un po' innamorata. Mi hai segnalato un video. E io quale? Ho perso. Ah, no, io pensavo all'ospite precedente. Ah, no, beh, dell'ospite precedente. Vabbè, scusa. No, ma ti ho segnalato. Questo un po' tutto. Questo un po' tutto. Ma no, ti ho segnalato questo video. Intanto perché l'ha segnalato l'autore parodiato, sì. O diciamo remixato, non so come si può dire. E poi per par condicio, perché l'altra parte dell'estate, in questa puntata che noi stiamo facendo con chiara nostalgia d'estate, certo. L'altro tormentone, non si dice più la parola tormentone, però insomma l'altra super canzone, ma lui dice che però non è proprio solo una canzone, era Andiamo a comandare. Quanto ci siamo divertiti quando ormai è venuto Fabio Rovazzi. Ma possiamo dire che l'abbiamo scoperto noi come Baudo? Allora, insomma, scoperto è un po' forte, però diciamo che siamo stati posti, tra i primi a individuarlo e a dire vogliamo Rovazzi in radio. Tra l'altro Fabio, possiamo farò dei vlog, prima o poi adesso sto imparando. Sì, perché gli avevi promesso che saresti diventato uno youtuber e un vlogger, ti sei un po' impigrito. Sono ancora lontano dal milione di... Sì, tra perché lui voleva il milione di views subito. Tra l'altro prima, quando mi preparavo all'ospite precedente, sì. Ma tu sai che sai i numeri di Solmismo? Del mismo Sole di Sofia sono 3. 114 milioni e passa di visualizzazioni. Cioè capito? Delle cose che fanno, vabbè, però lui, Fabio Rovazzi, sì. Non è da meno con la sua, ma adesso lancia su Facebook il remake della sua Metal. Ecco di chi mi ecco. Sono un po' innamorata, io lo trovo perché fantastico, è il tuo tipo di uomo, lo so, sì. Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa, ogni volta che parte siete imbarazzate come quella volta che stavo in ristorante. Posso offrirti da bere le grigie, solo che quando le passo il bicchiere. È la malattia, è pericolosa, statemi lontano, è contagiosa. È fantastico, ecco. sentilo. Non so se son pazzo o sono un genio, faccio i sempre mossi alla quella che io non mi credere. Cioè il ritornello ci lo sta. Lo canta pure meglio. Sì, esatto. Cioè il ritornello meglio, non so. Però insomma è Metal, ci sta. Il resto della canzone che no, musicalmente no, ci staissimo, sì. Senti, Danny Metal si chiama. Dai, è grandissimo. Gente Danny Metal. Che poga. Però non è l'unica versione. No, mi hanno detto che ce ne sono tantissime. Mi hanno suggerito ad esempio quella dei Pantellas. Christian Goldoni ci ha suggerito quella dei Pantellas dicendo ci sono un po' di parolacce. E ma a noi? Sì, ma perché c'è il ritorno a scuola. Vabbè, ascoltiamo tutte le parolacce. Ci scusiamo, tutte. L'audio potrebbe avere delle parole. Cioè, sentiamolo. Mi è rimasta in tangenziale la voglia di studiare. È dispersa sotto al mare la voglia di di studiare, l'ho perduta in tribunale. La voglia di studiare, se ho vai tra che non mi assale, non mi assale. La voglia di studiare. No, per ora non dice niente di strano, la voglia di studiare. Ma forse non la dice, non l'abbiamo presa. La dice dopo? Che lo dico io cosa dice. Vedi, è Christian Goldoni che ci vuol far fare sì. La figura dei bravi ragazzi, esatto. Quindi via le parolacce. Perché dice andiamo a scorreggiare, mi l'ha dicono detto. L'ha detto, tra l'altro detto da una donna. Ah no, è un'altra versione quella di andiamo a scorreggiare, non è questa. Ah, quindi hai proprio scelto la versione quella pudica. Abbiamo scelto. Ah, questa è la versione per la scuola, perché è iniziata questa la scuola. Per la scuola. Perché è iniziata la scuola. Io invece volevo quella cattiva, volevo quella scorreggiona. Oltre, fa niente. Ecco, andate a trovarla, googolate. Andiamo a scorreggiare. Non riesce neanche io a dirlo. Riesco, no, io le parolacce non riesco. Alcune parole tipo ruttare, scorreggiare, non riesco a dire. Però l'hai detto, dai. Ma dicendo che. Allora, poi c'è stata questa settimana, voltiamo pagina e anche cambiamo aria. Sì, anche perché se no. Si imbarazza troppo. Sì, esatto. Questa settimana, un altro caso della settimana, Urca. C'è Maretta. Urca a c'è Sky. Maretta, perché hanno sospeso la trasmissione di Di Canio. Allora, Di Canio. Allora. Perché Di Canio è un ex calciatore, ex allenatore, sì. Un discreto conduttore, perché comunque ha una conduzione focosa. L'hanno messo con Vialli, che è un tipo di conduzione un po' diversa. Perché Di Canio? No, io sono proprio per Vialli. Ma di solito allora, sei più... dico in retroscena. Sì, va bene. Qualche sera fa c'erano gli upfront, cioè la presentazione dei palinsesti di Sky. Sì. E tutte le colleghe dicevano: ma che bell'uomo questo, ma che bell'uomo quello. Tutti. In particolare, quello proprio che più suscita, lo devo dire, è Billy Costa Curta. Beh, perché c'ha lo stile, l'eleganza. Perché è un figo. Io però. Del resto, devo in quel dire caso che... la concorrenza non è difficile. Vabbè. Nel senso che è molto. Che è molto sposato e con una donna meravigliosa come Martina Colombari. Quindi. Strepitosa. Quindi... Vabbè, ma noi stiamo solo guardando. Cioè, non è che se sei a dieta non guardi il menù, eh. Ma no, stiamo solo dopo guardando. Billy? No, per me il più figo in assoluto è Vialli. Io sono proprio innamoratissima di Vialli. Ma torniamo quindi a questi upfront di Sky. Ma lo sai che a me piace divagare. Allora, dell'offerta sportiva e così en passant annunciano che la trasmissione di Di Canio viene sospesa. Urca. Quale trasmissione? Allora, mostriamo alla radio quale trasmissione? Vai. Abbiamo un video. Noi la conosciamo bene. L'abbiamo vissuta da giocatori e da allenatori. E sappiamo cosa si prova ad essere lì. Al centro del campionato più imprevedibile e sorprendente del mondo. Dove c'è posto solo per i fuoriclasse assoluti. Ed è per tutto questo che siamo pronti a viverla con voi. Che dire, questo era lo spot, gli ex calcio campioni. Calcio inglese, che, faceva caldo quest'estate. Anche negli studi. Ma tu dici che è colpa del caldo. C'era caldo e si è messo una maglietta maniche per corte. Per mostrare anche un po' il bicipite. Però un sul... tempo sai come si diceva, no? So ragazzi. So tatuaggi. Mica so tatuaggi. Però diciamo che c'era il un tatuaggio. Lo devo dire, ho detto scorreggiare, dico anche questa. C'era scritto Dux. Sì, e che inneggiava. Allora, ti posso dire, io lo dico, qual è stata la reazione un po' tra i giornalisti in quel momento? Non ve l'aspettavate intanto? No, ma soprattutto è stata un po' quella che è circolata quasi subito sulla rete. Perché poi ovviamente anche chi era lì ha twittato. Cioè, lo sapevamo tutti. E beh, insomma, non fosse di Rifondazione Comunista, l'avevamo vagamente. Diciamo che di Di Canio qualche simpatiuccia politica... No, lo ma sapevamo. Perché lui aveva fatto qualche gesto, i tatuaggi poi erano no. Ma dai, magari poi è appunto un momento. È un momento però è difficile. Non lo so, ma non lo questa so. Questa è tosta. Era risaputa, la cosa era risaputa. Certo. Di Canio. Viene preso come conduttore di calcio e non come... Non lo so, io se lui avesse detto qualcosa in trasmissione, una roba del genere, ok. Forse per un tatuaggio, c'è la linea editoriale nei tatuaggi. Non so, chiedo. Non lo so, però. dai, è proprio clamoroso. Sì, però... Però si sapeva anche prima, cosa fai? Non prendi lo un so. Conduttore e gli valuti tutti i tatuaggi che hanno? Ma non è mica un caso un tatuaggio. Io non ho neanche un tatuaggio. Neanche io, sai? Neanche un tatuaggio. Sai che neanche io. Non prendere... Basta tatuaggio. Conduttori sui tatuaggi. Una battaglia sui tatuaggi. Certo, quello è particolarmente... Vabbè, comunque. Vabbè, ma chiudiamo con cosa? Chiudiamo salutando, perché è finito il tempo a nostra disposizione. Ci vediamo la prossima settimana. Con questo... Sai come si chiamano in gergo tecnico questi? Dico un'altra parola cina. Anno devo no, impararlo. Una parola cina, sì. Questo di Sky. No. Si chiama merdone. No. Ma magari è un lancio, magari quella trasmissione farà il boom. Che hai pestato un problema. Senti, e quindi non so come ne usciranno. Facciamo che la prossima settimana magari io sono inviato. Vabbè, tu vai facciamo a Genova, così. Tu allora, vai a, la prossima tu vai a ovest, settimana e io vado a est. Io sono al Salone Nautico di Genova, quindi venitemi a trovare. Quest'anno tu non andateci, ci vieni. Perché io l'anno scorso ci sono andato, ho portato anche Rocco, un posto bellissimo, si vedono un sacco di barche e Radio 24 è stupenda al salone. Sì. Noi ci vediamo a Genova sabato prossimo, ci risentiamo con Radio YouTube. Per questo ringraziamo indispensabile Cristian Goldoni e Paolo Corleone in regia. Al prossimo sabato.